La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. In occasione dei prossimi 40 anni della legge sul divorzio, l'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al disegno di legge numero 898 sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio che il Parlamento approvò il 1 dicembre del 1970. Ospite ai nostri microfoni Giambattista Scirè, ricercatore di storia contemporanea all'Università di Firenze. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Siamo quasi vicini al compimento dei 40 anni. Era il 1 dicembre del 1970 quando il Parlamento approvava con 319 sì e 286 no il disegno di legge presentato l'anno prima dal socialista Loris Fortuna e dal liberale Antonio Baslini sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimoni. Dopo anni di battaglie e contrapposizioni, vedeva alla luce una legge che consentiva il divorzio anche nel nostro paese. Una lunga storia cominciata quasi un secolo prima. Fu un deputato del Salento, Salvatore Morelli, a presentare per primo nel 1878 una proposta di legge per l'istituzione del divorzio. Il progetto non ebbe successo e finì nel nulla anche un analogo tentativo messo in atto due anni dopo. Progetti di legge vennero presentati anche nel 1882, 1883 e ancora nel 1892 ad opera dell'onorevole Villa. Nel 1902 fu il governo guidato da Giuseppe Zanardelli a presentare un disegno di legge che istituiva il divorzio in caso di sevizie, adulterio e condanne gravi, ma anche questa volta non se ne fece nulla. Nel 1920 furono i socialisti a tornare alla carica con l'opposizione del Partito Popolare. Mussolini si dichiarò contrario e con la firma dei Patti Lateranensi del 1929 decretò la fine di ogni iniziativa legislativa che puntasse a introdurre il divorzio in Italia. Fu solo nel 1965, in concomitanza con la presentazione alla Camera di un progetto di legge per il divorzio da parte del socialista Loris Fortuna, che iniziò la mobilitazione soprattutto del Partito Radicale. L'opposizione della Democrazia Cristiana fu netta, ma anche all'interno del Partito Comunista e dei partiti laici si evidenziarono non poche resistenze. Approvata la legge, partì immediatamente la campagna degli antidivorzisti per abrogarla attraverso il referendum. Nel gennaio del 1971 veniva depositata in Corte di Cassazione la richiesta da parte del Comitato Nazionale per il Referendum sul Divorzio, presieduto dal giurista cattolico Gabrio Lombardi, con il sostegno dell'Azione Cattolica, l'appoggio dei Vescovi e di gran parte della Democrazia Cristiana del Movimento Sociale Italiano. L'appuntamento con le urne venne fissato per il 12 maggio 1974. Bettino Craxi schierò il PSI a favore del no. Amintore Fanfani lanciò la campagna per il sì. Il Partito Socialista invita a rispondere con un bel no a una richiesta che appartiene alla mentalità da conservatorismo integralista del secolo passato. Soffriamo dello sgretolamento di molti istituti sociali. Questo il responso delle urne comunicato dal ministro degli interni Emilio Taviani. Hanno votato no e si sono quindi espressi contro l'abrogazione della legge 19.093.929 cittadini, pari al 59,1%. Successivamente la normativa è stata modificata nel 1978 e nel 1987 per ridurre i tempi necessari per giungere alla sentenza definitiva di divorzio. Ora, ed è notizia che risale allo scorso febbraio, si potrebbe arrivare al processo breve anche per i divorzi. Il taglio dei tempi dei procedimenti giudiziari, per ora limitato al penale, potrebbe tornare alla ribalta anche nel diritto di famiglia e quindi fare leva sulla drastica riduzione della durata della separazione. La Commissione Giustizia della Camera ha iniziato a discutere tre progetti di riforma, due del PDL e uno del PD, che puntano alla pronuncia di divorzio in tempi più rapidi, ridotti 20 anni fa da 5 a 3. Ora si prevede un solo anno. Abbiamo in linea Giambattista Scirè, che è ricercatore di storia contemporanea all'Università di Firenze e autore di diversi saggi sul divorzio. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, lei si è occupato a più riprese di questa questione della legge sul divorzio, dei tempi anche che ci sono voluti per approvarlo in Italia. La prima cosa che vorrei chiedere: cosa ha rappresentato questa legge, approvata ormai quasi 40 anni fa, per la società italiana negli anni 70? Perché occorre prima di tutto contestualizzarla in quegli anni. Certo. Indubbiamente, diciamo che insomma, il nostro paese, rispetto agli altri paesi europei e agli Stati Uniti, è arrivato tardissimo ad una conquista di questo tipo. Basti pensare per esempio che in Francia insomma, la cosa era stata già sancita addirittura nel 1792, quindi insomma una situazione italiana tutta diversa, che ovviamente fa capire insomma anche un po' qual era la differenza rispetto proprio del modo di pensare degli italiani di allora. Cioè, basti fare anche qualche piccolo esempio: cioè, il miracolo economico era passato, però in realtà la mentalità degli italiani era molto arretrata, perché insomma influivano alcuni fattori determinanti per il nostro paese, in particolare ovviamente l'ideologia cattolica dominante e poi soprattutto le carenze dello Stato e della legge. Basti pensare che il diritto di famiglia era negli anni 60 ancora legato a criteri che facevano riferimento al codice Rocco del fascismo. Quindi per quegli anni insomma sicuramente rappresentò completamente una conquista assoluta, soprattutto per un determinato numero di persone, cioè un ceto medio, diciamo, fasce della popolazione compresa tra i 20 e i 40 anni. Per il resto, insomma, l'immagine della famiglia tradizionale rimaneva ancora insomma quella dominante ancora in quegli anni. Ecco, ritornando proprio a quegli anni, gli schieramenti politici che sicuramente si dichiararono a favore della legge sul divorzio furono i laici in generale e soprattutto i socialisti, poi con i radicali, mentre si evidenziò una certa resistenza anche da parte del Partito Comunista. Per quale motivo, secondo lei? Dunque, il Partito Comunista diciamo, viveva una situazione abbastanza problematica, per esempio rispetto appunto al Partito Socialista fratello, tra virgolette, nella sinistra italiana. Cioè, già nei modi di pensare insomma, della classe dirigente del partito c'era comunque quel riferimento, per esempio quella sorta di moralismo, tra virgolette, dovuto anche appunto ad una sorta appunto di assimilazione dei costumi della società di quel periodo, e poi politicamente invece c'era un riferimento chiaramente alla linea gramsciana togliattiana, che voleva assolutamente evitare la cosiddetta guerra di religione, quindi una motivazione diciamo politica ma anche sociale, ecco, un arretramento in questo senso sicuramente si ebbe. E chiaramente furono i radicali, ovviamente certo non tutto il Partito Comunista era così. Per esempio il gruppo dell'Udi, quindi le donne comuniste, chiaramente pressavano perché ci fosse una certa apertura. Quindi io poi anche leggendo i verbali nella fondazione dell'Istituto Gramsci ho potuto capire insomma che c'erano delle posizioni diversificate, e questo non accadde soltanto per quanto riguarda il PC, ma anche, cioè, una cosa che mi preme sottolineare: di solito si fa sempre si dà quell'immagine, no, di un'Italia spaccata in due, da un lato diciamo la Chiesa, i movimenti cattolici, dall'altro lato invece i movimenti laici e i movimenti diciamo delle femministe. In realtà la questione è un pochettino più, ci sono più sfumature, la questione è un po' più complessa, cioè all'interno di ogni settore ci furono delle posizioni diversificate, ecco, questo è importante da ricordare. L'altro elemento di un certo interesse dal punto di vista storico, ormai si può parlare di storia essendo trascorsi 40 anni, che cosa determinò poi questa accelerazione improvvisa che portò nel primo dicembre del 70 all'approvazione di un disegno di legge la cui prima versione risaliva a 5 anni prima? Ci fu un qualche elemento dal punto di vista politico che agevolò la risoluzione poi di questa questione? Allora, sicuramente diciamo la collocazione del Parlamento, cioè praticamente i gruppi che sostanzialmente potevano considerarsi divorzisti e antidivorzisti, chiaramente dopo alcune le elezioni poi del 68 ci fu un sostanziale cambiamento, quindi diciamo c'era una idea che comunque venne portata avanti dai socialisti di fortuna, a cui poi si accodarono in parte i comunisti, e quindi diciamo ci fu questo cambiamento diciamo politico politico, proprio numerico a livello parlamentare. Quindi questo è un primo aspetto da tenere in conto. Poi indubbiamente ci fu il fatto che se la Chiesa all'inizio, quando Fortuna presentò il disegno di legge, rispose subito con delle note della CEI che comunque richiamavano alla difesa della famiglia, quindi diciamo da un certo punto di vista la DC si doveva trovare allineata a questa posizione, in realtà poi il partito, quindi tutto il mondo cattolico dal punto di vista politico, non era poi così allineato, perché capiva che in realtà anche frange abbastanza numerose dello stesso mondo cattolico, insomma, in realtà non erano poi così convinte, ecco, di opporsi ad una legge sul divorzio. Questo lo dimostrò sì. Anche il responso del referendum poi alla fine. Sicuramente il responso del referendum dimostrò che evidente, questa è una cosa che mi sembra interessante sottolineare, è che in effetti la società, quindi la popolazione, era molto più avanti di quanto in realtà la classe dirigente pensasse. E quindi diciamo la sorpresa fu forte, non solo per gli osservatori stranieri, ma anche per gli stessi, insomma, come dire, i gruppi dirigenti si trovano scavalcati sostanzialmente da una risposta che poi fu quella delle urne, ed è forse il primo caso nella storia d'Italia in cui effettivamente, come dire, la società prende una posizione netta e supera sostanzialmente il suo ceto politico. La ringraziamo molto, dottor Scirè. Bene.